Fujiko Factory, your musical playground. Buon mercoledì di Fujiko Factory, io sono Lucri e parte una nuova puntata di Fujiko Factory. Una puntata che devo dire sarà, mi ameranno molto in redazione per questo motivo, ma sarà tutta una puntata dedicata a Sanremo, alla prima serata di Sanremo, quindi oggi sarà un Fujiko Factory Sanremo Edition. Io sono sola soletta negli studi di Radio Città Fujiko, ma in realtà in collegamento c'è anche la nostra Adelina, che in questo momento mi sembra un po' un avatar. Io la sto guardando, lei sta guardando me, ma tra pochissimo ve la farò salutare. Ma intanto vi presento un po' questa puntata. Innanzitutto alle 15.30 avremo il collegamento telefonico direttamente da Sanremo con Eddie Anselmi, che appunto ci faremo raccontare un po' le sensazioni direttamente da Sanremo. Appunto è partita questa primissima puntata, io ammetto di essermela guardata tutta fino alla fine, circa fino all'1.30, infatti sono abbastanza addormentata, ma chi mi conosce sa che per me ne vale sempre la pena. Quindi ieri, armata di fogli e penna, perché insomma rende di più, mi sono segnata appunti che vi racconterò nel corso della nostra puntata. La cosa divertente è che Adelina in realtà proprio ieri ha fatto tutt'altro, anzi in realtà io mi sa che lo accendo il microfono di Adelina. Mi senti Adelina? Ora forse sì, riprova. Ciao, ciao. Cioè io in realtà non ti sento, ma spero che i nostri ascoltatori ti sentiranno, e invece no, ma sta arrivando l'aiuto tecnico di cui ho bisogno. Però infatti Adelina sarà in collegamento con me e appunto diciamo che lei farà la parte angelo e diavolo relativa a Sanremo, ma io intanto direi di partire con il primo brano, che insomma Sanremo si è aperto in molti modi, però la primissima canzone che c'è stata al festival è stato insomma il vincitore della 70esima edizione, che molto emozionato ha aperto la 71esima edizione. Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale. Se ti penso tu sei un'anima, forse questo temporale che mi porta da te, e lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello, anche se ho capito che per quanto io fugga torno sempre. Senza parlare, senza un posto a cui arrivare, consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare, che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare, e faccio finta di non ricordare, e faccio finta di dimenticare, ma con Fai rumore di Diodato si è aperta appunto l'attesissima 71esima edizione. Devo dire che in realtà appunto si è aperta in un modo molto emozionante, perché appunto c'erano Ama e Fiore saliti sul palco. In realtà i primissimi secondi erano totalmente al buio, sicuramente deduco sia una parte registrata, ma appunto dopo quei secondi al buio si illumina il palco, che ovviamente era segretissimo, quindi scopriamo il palco di Sanremo proprio nei primissimi secondi, e si scopre un palco, devo dire, molto bello, con tutta l'orchestra distanziata, mascherina nera che non si tolgono mai, quindi insomma anche pensare alla difficoltà tecnica di insomma lavorare per ore e ore, cambiando continuamente comunque brani, seguendo anche le varie improvvisazioni sul palco di Fiorello e Amadeus con la mascherina. E soprattutto però la cosa che di impatto subito abbiamo visto era la mancanza del pubblico. Però devo dire, ne parlavo anche poco fa in redazione, io vabbè sono grandissima fan di Fiorello, nonostante probabilmente negli ultimi anni un pochino anche lui abbia perso, però devo dire che ha aperto il festival in un modo veramente molto bello, perché soprattutto i primi minuti, almeno io personalmente, la mancanza del pubblico non l'ho sentita, perché comunque lui è riuscito a prendere spazio all'interno appunto del teatro Ariston, muovendosi e soprattutto parlando alle poltrone, quindi ridendo appunto delle poltrone e del fatto che le poltrone avrebbero mosso diciamo i braccioli, facendo poi tutta una gag su, insomma, si può dire anche a Radio Città Fucico, il culo, perché se l'hanno detto a Rai 1 in primissima serata, quindi insomma tutta questa gag. Il Sanremo 2021 devo dire che è stato anche veramente super social, come in realtà già ce lo aspettavamo, quindi io direi che questa puntata di Fucico Factory ripercorreremo i brani, la primissima a salire sul palco, un'emozionatissima Arisa, tutta in rosso. Devo dire che però il rossetto un pochino stonava, perché c'era molto rosso, dei capelli un po' particolari. Tra l'altro lei si sposerà a settembre, però è una canzone che parla di amore tossico, quindi un amore. Io intanto vedo Adelina che si muove, non so esattamente cosa sta facendo, mi sembra un avatar. Dici un po'. Niente, abbiamo ammutolito Adelina, eccola, Arisa, sì. Ciao a tutte, ciao a tutti. Niente, la mia prima parola è stata Arisa, perché io in realtà non l'ho visto il festival, come molti sanno, perché non l'ho mai visto. Vabbè, devi fare un po' la rivoluzionaria anche in questo, certo, festival. Non lo puoi guardare, ma io te lo farò guardare. Tu devi sapere che entro sabato tu almeno un'ora di festival lo guarderai. No, però ho ascoltato tutti i brani, tutti i pezzi, ma anche perché, nel senso, è impegnativo farsi, che ne so, 4-5 ore di diretta di Sanremo, nel senso, è tosta, e quindi vado per pezzi, quindi parto ascoltandomi le canzoni e poi vediamo se me lo guardo. Beh, effettivamente per ora abbiamo ascoltato i primi 13 brani in gara, i brani sono 26, tra l'altro una piccola curiosità che, se tu non lo hai seguito evidentemente questo non lo sai, ieri si sarebbe dovuto esibire Irama, ma al suo posto c'è stato uno switch, si è esibita Noemi, poi insomma vi racconteremo meglio. Irama insomma c'è stato all'interno del suo staff, perché dovete sapere che ovviamente i cantanti arrivano insomma con molto seguito, insomma tutta la troupe operativa al seguito, uno di questi è risultato positivo, quindi insomma ci sono stati controlli su controlli, ieri ovviamente non si è esibito. Per questa sera in realtà non si sa ancora se si potrà esibire oppure no, però visto che ormai insomma a Sanremo le prove generali le ha fatte, quindi per ora diciamo che Amadeus ha proposto, ma ancora non c'è l'ufficialità in questa cosa, di poter insomma trasmettere le prove ufficiali che Irama è comunque riuscito a fare, quindi per non eliminarlo totalmente. Tra l'altro noi tra pochissimo sentiremo Eddie Anselmi, che è praticamente un computer su queste notizie, perché ci faremo dire da lui, io l'ho già un po' in realtà letto, nel caso in cui si dovesse ritirare, ovviamente per cause che non dipendono da lui, però non è probabilmente l'unico artista che all'ultimo si è ritirato. Poi ovviamente noi ci ricordiamo anche quanto è successo l'anno scorso con Bugo e Morgan, non posso non dirlo. Però Adelina, ti vedo felice su questa base, oggi non mi odi perché la metto. Vai, mettila. Io non la sento, tra l'altro. Sto mettendo Bugo e Morgan remix perché finalmente oggi Bugo si esibirà e io insomma spero che dimostri la bravura. Tra l'altro, tornando al brano di Arisa, la primissima a scendere queste scale temute da tutte e tutti, perché qualsiasi persona, soprattutto i super ospiti che hanno sceso le scale, citando anche Montale, ho sceso le scale, danno già, vabbè, e appunto tutti scendono le scale, soprattutto la fantastica Matilda De Angelis dicendo ce l'ho fatta. Quindi insomma penso che la cosa più importante all'interno del festival sia riuscire a fare le scale. Quindi Arisa la prima che ha insomma sceso le scale e ci parla quindi appunto di questo amore tossico. Tra l'altro dice: a cosa serve una rosa quando è piena di spine? Infatti lei si presenta tutta in rosso con una rosa rossa e devo dire che io mi sono segnata i miei appunti, che tra parentesi scrivo brividino sul ritornello. Dice: urlerà anche, mi mancheranno i sorrisi, una canzone tra l'altro scritta da Gigi D'Alessio. Io ieri sera dicevo Gigi D'Aga, ma in realtà è Gigi D'Alessio. Quindi io direi che ci ascoltiamo un pezzettino di Arisa che canta Potevi fare di più. Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era quell'acqua, oggi solo vapore. Potevamo fare di più. A che serve cercare se non vuoi più trovare? A che serve volare se puoi solo cadere? A che serve dormire se non hai da sognare? Nella notte il silenzio fa troppo rumore. A che serve una rosa quando è piena di spine? Torno a casa e fa festa solamente il mio cane. Ora i nostri percorsi sono pieni di mine. Sto annegando ma tu non mi tendi la mano. A che serve un cammino senza avere una meta? Dare colpa al destino che ci taglia la strada. Non importa se sono vestito o son nuda, se da sopra il divano più niente ti schioda. A che serve cercarmi se nemmeno mi guardi? Ero dentro ai tuoi occhi ma tu non lo ricordi. Noi di spalle nel letto più soli e bugiardi. Ti addormenti vicino, ti svegli lontano. Mi mancheranno i sorrisi che da un po' non vedevo. Ti chiamerò qualche volta senza vero motivo. Racconterò a chi mi chiede che sto bene da sola. Questo farai anche tu. Cancellerò foto e video dal mio cellulare solo per non vederti né sentirti parlare. Mi avrò piena la testa e spazio sulla memoria. E chissà quanto tempo io ti amerò ancora. Che serve una rosa quando è piena di spine? Torno a casa e fa festa solamente il mio cane. Ora i nostri percorsi sono pieni di mine. Sto annegando ma tu non la mano. A che serve un cammino senza avere una meta? Dare colpa al destino che ci taglia la strada. Non importa se sono vestito o nuda, se da sopra il divano più niente ti schioda. A che serve toccarmi se nemmeno mi guardi? Ero dentro ai non lo ricordi, ma di spalle nel letto più storie e bugiardi. E questa che stiamo ascoltando è Arisa, che appunto ha aperto la 71esima edizione con Potevi fare di più. E sul Potevi fare di più, Adelina, anche tu potevi fare di più. tipo potevo guardarmi il festival, però esatto. mi sono passate queste canzoni. Tu dicevi che hai preso appunti e anch'io mentalmente ho preso un po' di appunti, e la parola che mi sono appuntata di fianco a Risa questa canzone è Lagna. È un po' una lagna sta canzone, cioè voglio allora, dire. Allora, io dico che ti sto già minacciando continuamente di chiudere il collegamento, perché oggi è ancora più divertente, non posso, oltre a spegnerti il microfono, proprio anche chiuderti col computer, ti chiudo. No. No, allora, vabbè, si sa che a me piace dissacrare Sanremo perché non mi piace Sanremo, però è anche interessante in realtà questo confronto, perché ora in effetti potrei dire di più a riguardo la parola lagna che ho scritto di fianco ad Arisa, però diciamo che è un po' monotematica, ma anche nella melodia, anche nelle parole, cioè mi sembra una roba già sentita, che comunque questo è un filo comune che tiene un po' tutto insieme Sanremo. Ma diciamo anche... che in realtà io sono in realtà d'accordo su questa cosa, ma perché di base le canzoni che vanno a Sanremo sono scritte per Sanremo, cioè sono confezionate per fare in modo che possano salire sul palco. In realtà noi oggi parleremo di tutte e 13, ma la primissima, perché poi è uscita anche la prima classifica, ad esempio la primissima che è Annalisa, un'Annalisa, una Noemi, cioè sono canzoni da festival totalmente, quindi in realtà poi vuoi o non vuoi è così. Tra l'altro, non mi ricordo, volevo dire qualcosa ma non me lo ricordo più, ma poi oltre ad Arisa, ah no, perché dopo l'ingresso di Arisa, cioè noi dobbiamo praticamente sintetizzare 5 ore di diretta Rai, che è un po' complicato, però finalmente subito dopo Arisa è salita sul palco Matilda De Angelis, che scende appunto, stai facendo un'inquadratura da boomer, Adelina. Dai, ma smettila, non puoi farmi shaming anche quando sono da remoto. Vabbè, ho capito, ma io poi almeno mi aspetto i messaggi al 333 180 94 94, che la nostra cifra stilistica del Fujiko Factory del mercoledì insieme è appunto che di solito sei sullo sgabello bianco, oggi lo sgabello bianco è vuoto, ma sono seduta sulla sedia ergonomica. Ecco, vedi che da casa le cose migliorano. Sei appena sparita? No, sei appena ritornata. Ma appunto una Matilda De Angelis straordinaria, devo dire. Sono anche ben felice che appunto anche la critica mi sembra che si sia insomma espressa in modo molto positivo. Ma poi appunto chiediamo meglio a Eddie, che sicuramente è più sul pezzo. Però appunto Matilda De Angelis scende le scale e inizia in un modo bellissimo, perché dice: buonasera poltroncine e pigiamini da casa. Ovviamente eravamo tutti a casa in pigiama, e quindi insomma nella sua semplicità è stata bravissima. Tra l'altro appunto hanno, e sono molto felice di questo, sottolineato più volte più la sua bravura e non la sua bellezza, nonostante sia insomma lì da vedere che è bellissima, ma soprattutto è bravissima, quindi spigliata sul pezzo. Aggiungiamo anche che è bolognese, che mi sembra una cosa in più da dire giustissima, direttamente da Pianoro, oltre in realtà poi aver girato l'America, perché è stata anche scelta per fare dei film in America, è arrivata sul palco di Sanremo in punta di piedi, ma lasciando secondo me il segno. Infatti a me dispiace che in realtà ci sarà solo nella prima serata, perché infatti oggi poi invece al suo posto arriverà Elodie. Tra l'altro poi c'è anche Zlatan Ibrahimovic, che vi giuro io non ho ancora capito il suo ruolo. Tu sicuramente non sai nulla di Zlatan. No, lo so, perché comunque cioè, anche chi non guarda Sanremo comunque è condizionato in questa settimana da tutte le notizie, da tutte le gif, da tutte i post su Facebook, su Instagram, quindi io non l'ho guardato, ma è un po' come se l'avessi guardato, perché aprendo i miei social non c'era altro, e quindi ho visto la discesa dalle scale di Zlatan Ibrahimovic, e sì, mi chiedo anch'io cosa ci faccia Zlatan Ibrahimovic al festival, però comunque rientra nelle tante risposte che mi do alla domanda: ma perché non guardi Sanremo? Ecco, questa esattamente. Ma a proposito di questo, noi intanto ci ascoltiamo un altro brano, che devo dire loro sono in realtà già super favoriti, questa coppia bellissima che sono Colapesce e Di Martino, che appunto cantano musica leggerissima, e devo dire che questa canzone mi sa molto di anni 80, molto musica retro, con anche sul palco appunto la ballerina sui pattini, la pattinatrice, sembrava un po' una lezione di aerobica vedendola sul palco. Loro siciliani, io devo dire che però a me questa canzone è piaciuta molto, probabilmente a primo ascolto non è semplice, infatti nei miei appunti mi sono riscritta da riascoltare Ma Bella, quindi spero tu non pensi anche di loro lagna. No, e invece di loro non dirò che sono una lagna, anzi appena hanno iniziato ho detto: oh, questa canzone quasi mi piace, quasi. Poi andando avanti, però no, ho apprezzato invece, perché con la Pesce di Martino in realtà sono due artisti che io ogni tanto mi ascolto pure, e credo che comunque nello scenario della musica indie italiana rappresentino abbastanza un'ottima risposta, e anche loro si sono un po' sanremizzati, come giusto che sia. Esatto, però no, non mi dispiace. Voto 5 al 6. Mamma mia! Comunque, questo è il parere di Adelina. Io invece penso che andranno molto lontano, come anche il loro outfit straordinario. Questo completo azzurro e lilla, colori pastello, con camice di raso. Ma ce ne ascoltiamo un pezzetto. Se bastasse un concerto per far nascere un fiore, tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, è il nome di un Dio che non esce fuori contemporaneo, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera, perché un po' gli anni niente, anzi leggerissima. La cantano i soldati, i figli alcolizzati, i preti progressisti. La senti nei quartieri assolati, che rimbomba leggera. Sempre, tra l'altro, le canzoni di Sanremo vanno ascoltate e riascoltate, quindi il mio consiglio personale è questo: voi ascoltatevele anche stasera le altre 13 che ci saranno, ma poi l'unica cosa è riascoltarsele in cuffia, un po' come faremo noi oggi. Tra l'altro nasce poi anche una fantastica playlist di Spotify, quindi insomma Spotify sta per bene sponsorizzando Sanremo 2021. Le 15:31, siamo puntualissime in questa puntata, non l'ho ancora detto in realtà, Lucri, Adelina e Lucri. Adelina in realtà in questo momento è una specie di avatar, quindi più distanti di così non si può, ma siamo distanti ma unite come sempre, unite in questo Fujiko Factory 2021, e che poi appunto è Sanremo 2021, quindi Fujiko Factory che incontra Sanremo. Ma in realtà mi sono dimenticata di fare anche un ringraziamento, perché in questi giorni io c'ero e non c'ero, però insomma la bellezza di Radio Città Fujiko è la bellezza di essere una radio comunitaria e di esserci nonostante tutto. Quindi io volevo ringraziare Mauro ed Erika, che hanno diciamo percorso il Fujiko Factory del lunedì, e ieri che insomma c'è stato il nostro direttore che incontra Fujiko Factory con la nostra Adelina, sempre in versione avatar, che intanto fa gesti, non fare gesti. ma tanto nessuno mi vede dalla mia cameretta. Ma ti vedo io. Tra l'altro, appunto, tra pochissimo avremo in collegamento telefonico con noi Eddie Anselmi, ma siamo arrivate al punto di sale sul palco Arisa, sale sul palco Matilda, salgono con la Pesce e Di Martino. Tra l'altro non abbiamo ancora detto una cosa importante, che Sanremo sta, tra virgolette, giocando anche tanto sul fatto che bisogna rimanere distanti, non bisogna toccarsi, quindi i fiori vengono portati da un carrellino, che insomma è una scena anche abbastanza comica e surreale, e le buste non si possono toccare, quindi sempre il carrellino. Quindi insomma, a modo loro ci insegnano anche, nonostante poi in realtà loro potrebbero ipoteticamente tra loro toccarsi, visto che sono tutti totalmente tamponati e saremo in questo momento è una bolla perlomeno abbastanza sicura, però comunque io credo sia anche tanto anche un modo per ricordarci che dobbiamo sempre e continuamente mantenere insomma la situazione sotto controllo, e dobbiamo continuare a stare attenti nonostante appunto sia difficilissimo, come è difficilissimo per insomma gli amanti di Sanremo vederlo in questa versione. Il teatro vuoto, le sedie inquadrate molte volte creano insomma una sensazione un po' triste, ma allo stesso tempo un messaggio secondo me forte, chiaro e bello. appunto, che dimostra che la musica può e deve assolutamente continuare. Noi siamo appunto a ridosso la scorsa settimana dalla mobilitazione in tutte le piazze italiane, siamo a ridosso di quanto è successo con Ultimo Concerto, che ci hanno raccontato perfettamente Mauro ed Erika, e poi appunto arriva Sanremo 2021, che ci dimostra che insomma con le dovute ricorrenze, insomma facendo tutto in un certo modo, tutto si può fare. E ora passiamo al prossimo cantante in gara, lui è Aiello con Ora. Io su lui dovrei dire in realtà un po' di cose. Innanzitutto, anch'io. Immagino. Innanzitutto, rega, questo non ha mai fatto un live e si vede. Quindi diciamo che ci sono alcuni cantanti in gara che sono tra i big, e nonostante a me Aiello piaccia molto, però lo sto un po' rivalutando, perché ieri mi è sembrato che questo live non sappia cantare. Infatti sono nati tantissimi meme sulla sua esibizione live, perché devo dire che non si è capita nessuna parola. E infatti poi riascoltandola su Spotify, in realtà la canzone è molto bella ed è molto in stile Aiello. Peccato che ieri sul palco abbia portato, diciamo, una versione molto discutibile di questo brano, che è Ora. Stavo dicendo canta ora, ma in realtà canta, era per dire Aiello canta ora. Comunque canta ora appunto Aiello. E fa molto ridere, perché in realtà dopo Paracetamolo di Calcutta c'è ibuprofene. Ibuprofene è una parola che cita molto. Era molto emozionato e impacciato, questo sicuramente. Le parole non si capiscono bene, però da riascolto, se anche voi la state ascoltando in sottofondo, devo dire che la canzone però è bella. Ah, è bella? Sì. Ah, ok. No, sì, questa canzone è molto bella. Ce la faccio proprio, Luca, mi dispiace, cioè oggi è la spalla proprio, non so nemmeno io come definirmi, però no, invece io volevo dire su Aiello, ecco, la parola che mi sono appuntata di fianco a questa esibizione è stata strazio. Allora, io capisco il discorso che fai, e forse la cosa che mi è piaciuto di più invece di questa esibizione è appunto questa un po' spontaneità, questa anche imperfezione di queste persone che comunque sono un sacco emozionate. Dicevi, non ho mai fatto un live, quindi il primo live in questo stranissimo festival di Sanremo, io lo giustifico pure. Poi che cosa ha cantato e come ha cantato, non si è capito. Non si è capito, però insomma, mi piacerebbe arrivare a un festival in cui la gente sta tutta presa bene, e anziché parlare di paracetamolo e ibuprofene dica non lo so. Però insomma, mi appunto strazio, voto 4. Tra l'altro, Adelina, io non so come tu faccia, ma anche in versione avatar ai tuoi fan, che appunto ci scrivono: Adelina semplicemente fantastica, ma soprattutto ciao Adelina e Lucri, fate qualche gag delle vostre che oggi mi hanno fatto girare le balle. Devo dire che in realtà, ecco, è una giornata in un mood così un po' per tutti, ma ci proviamo, nonostante appunto insomma trasmettere anche distanti non sia molto semplice. Siamo in una situazione un po' complessa anche appunto per riuscire a trasmettere sui 103.1, ma in qualche modo lo faremo. Però dovete sapere che io devo tenerla un po' a bada Adelina, perché sennò mi spara zero sul festival, e la mia puntata Fujiko Factory incontra Sanremo 2021 è un problema, anche perché io inizio già a avere un po' paura, perché tra Aiello e il prossimo duetto, perché il prossimo è il duetto, infatti ho molta paura di sapere cosa ne pensi tu, ma nel mezzo c'è stata, diciamo, una propaganda mascherina, giustamente, quindi insomma Amadeus si è messo la mascherina, ha fatto la gag sul fatto che lui avendo il nasone con la mascherina insomma è più comodo, insomma tutte queste cose qua, ma soprattutto arriva sul palco un simbolo, un'eroina, che è Alessia Bonari, che appunto insomma va postato la foto con i segni della mascherina, una foto che diventa virale, e dopo essere stata al festival di non mi viene la parola, di Venezia, arriva anche sul palco dell'Ariston. Ma poi i prossimi che salgono sul palco, io ho veramente molta paura, veramente molta. Però i prossimi che salgono sul palco sono Fedez e Francesca Michelin. Bene, Adelina è svenuta nel frattempo. Però prima fammi dire a me, perché io so che poi tu distruggerai. No, vai. Io in realtà penso che sia una canzone molto bella, molto orecchiabile. C'è molta sinergia tra loro due, che tra l'altro insomma il primo loro featuring risale a 10 anni fa. Salgono sul palco con un filo bianco che li unisce. Non vi lascio immaginare quanti meme ci possono essere stati su questo filo bianco che li unisce. Un Fedez mega in ansia, e da persona molto ansiosa in realtà ho capito la sua ansia, anche se voglio dire non lo so, penso che meno male che c'era Francesca, perché Francesca in realtà era super sul pezzo. Tra l'altro si è tagliati i capelli probabilmente 2 minuti prima, perché tutte le foto ufficiali era con i capelli lunghi. Francesca è stata secondo me veramente veramente bravissima, sul pezzo. Sa, ormai sono anni che fa duetti con ogni persona, in ogni duetto riesce a trovare la sua identità, quindi io in questo brano trovo Francesca straordinaria. Fedez l'ho trovato ieri sul palco molto a disagio, molto emotivo, però ha spoilerato che la figlia si chiamerà con la V, quindi insomma l'internet è esploso, sono tutti molto felici, ma io credo che questo brano sia veramente molto bello, che appunto è Chiamami per nome. A lei la parola, Adelina. Beh, il titolo mi piace perché rimanda a un film che mi piace veramente tanto, Call Me By Your Name. E che dire della loro performance, allora, da dove iniziare? Allora, io in realtà stimo molto Francesca Michelin, perché io la reputo una musicista, e una musicista davvero sul pezzo. Oltretutto lei ha studiato al conservatorio, sperimenta un sacco nei suoi Siete studi. Colleghe? Siamo colleghe, esatto, quindi anche un po' per solidarietà devo dire che io l'apprezzo, però credo che la canzone che lei ha cantato in duetto con Fedez non valorizzi davvero il potenziale che ha. Quindi sì, meno male che c'era Francesca, perché Fedez invece c'è grande delusione, nel senso, ora non voglio davvero distruggerlo, però non è uno dei miei artisti preferiti, e quindi non so, a un certo punto io non ho capito, cantava con l'autotune. Esatto, a un certo punto, non in tutto il brano in realtà, ma in una parte c'è una parte di autotune, però devo dire che ormai anche l'autotune sul palco di Sanremo è stato sdoganato da qualche anno. Tra l'altro non è l'unico, perché anche Fasma, se il mio orecchio non sbaglia, c'era una gran parte di autotune nel brano, quindi ormai l'autotune è da un paio d'anni che calca Sanremo. Fedez in realtà erano tantissimi anni che non usava più l'autotune, anche se insomma nell'ultimo progetto che sta facendo, quindi Bella Storia, insomma tutti gli ultimi brani c'è molto autotune. Qua si sente l'autotune. Però non so, secondo me è un bel pezzo, anche il videoclip, perché i brani ormai appunto appena saliti sul palco poi vengono pubblicati su tutte le piattaforme, e nella notte, alla fine del festival, sono usciti anche i videoclip. I videoclip secondo me danno sempre un'idea generale di quello che sta avvenendo, insomma cosa vuole rappresentare il brano, e devo dire che anche il videoclip è veramente molto bello. Ma subito dopo questa canzone arriva Loredana, sì, per te, che devo dire, arriva Lori. Tra l'altro, se il direttore è il nostro ascolto, potrebbe entrare anche lui, visto che io l'ho visto gasato e preso bene proprio per Loredana Bertè. Io ogni volta noto una cosa che mi fa molto ridere: Loredana Bertè, in qualsiasi apparizione televisiva, ovunque lei vada, si porta con sé la borsa. Vabbè, ma perché Loredana Bertè è una signora, cioè di nome e di fatto, perché è una non grande, sono una Loredana signora. Bertè. No, esatto. No, invece io ho apprezzato un sacco l'esibizione di Loredana. No, ma assolutamente anche io, vestita, insomma, è bellissima. Tra l'altro, vabbè, Adelina, sono ben felice di dirlo con te, però insomma si notavano subito, anche grazie alle inquadrature, le scarpe rosse appoggiate al suolo, appunto per dare un grandissimo messaggio. Infatti alla fine dell'esibizione lei in realtà ha cantato 3 pezzi, Mare d'inverno, Non sono una signora, il terzo che non mi ricordo, e poi ha cantato il singolo. Adelina, ti stanno chiamando? Digli, sì, che sei occupata, vabbè, digli che hai qualcosa da fare. E con queste farfalle in testa, questo capello blu straordinario, la borsetta che in realtà nasconde appunto il, non so come si chiami, comunque la parte di microfono, però è famosa per fare le sue apparizioni televisive con quello, ma il messaggio femminista importante al primo schiaffo bisogna denunciare. Io sono ben felice che queste parole vengano dette su un palco così importante. E poi insomma l'internet si è preso benissimo, perché lei a un certo punto canta questo nuovo singolo che, vabbè, possiamo dirlo, era totalmente in playback. Figlia di Loredana, quindi io oggi sono ben felice di dire che anch'io mi sento figlia di Loredana, ma appunto tutti i primi 3 pezzi, questo medley l'ha fatto live, ma figlia di Loredana l'ha cantato palesemente in playback. Spero e penso che ve ne siate accorti anche voi, se no, ups, ho fatto uno spoiler. No, io non credo che tu abbia fatto uno spoiler, anche perché... Cioè, io ho adorato Loredana, però l'ho vista un po' provata dopo il terzo pezzo, E quindi poi ripartire così era poco credibile. No, però... anche perché appunto l'ultimo brano, che deduco sia uno dei suoi ultimi singoli, canzone bellissima, ritornello che spacca, si può dire assolutamente, però ha pur sempre iniziato ad avere la sua età, quindi insomma era sul palco già da un po' di tempo, quindi insomma diciamo che il non so, il playback lo posso anche capire. Ma subito dopo sale sul palco il quinto artista, un Max Gazzè, che devo dire, io ho fatto pausa sigaretta in cucina, il tempo di arrivare in sala, e ho sentito questo. Vediamo se parte. Si può fare! E quindi io sinceramente ho detto alla mia coinquilina che stava guardando Sanremo con me, anzi grazie Marti che mi sopporterai tutti e cinque i giorni, e ho detto raga cosa mi sono persa, cioè tempo di finire la sigaretta, e invece appunto il brano parte così, ma tu ti aspetti di vedere Max Gazzè e invece ti trovi, non so, io credo sia stato Da Vinci, non ho poi confermato, ma deduco fosse vestito da Da Vinci con la maglia numero 11, questo si può fare, questo bellissimo messaggio diciamo, e arriva sul palco appunto con la canzone che è Il Farmacista, quindi dopo l'ibuprofene arriva Il Farmacista. Tra l'altro in realtà ci sarebbe anche il nome, perché lui arriva come Max Gazzè e la Trifluoperanzina, che appunto erano questi cartonati, devo dire, veramente fantastici. E infatti, ecco, qualcuno ci scrive: attente a quello che dite, che Max Gazzè lo adoro. Ma in realtà mi trovi d'accordo, Paolo, perché anch'io Max Gazzè lo adoro, ha fatto un'esibizione molto particolare, però questo va detto, però sono d'accordo che si può fare. Si può fare, e tra l'altro Max Gazzè io non mi sento di criticarlo in realtà, perché tra tutte le varie canzoni e tra i miei commenti Lagna, strazio, oddio e non ce la faccio dopo 10 secondi, invece Max Gazzè è diciamo una boccata d'aria fresca, nel senso che porta un po' di pop, un po' di allegria, un po' di ritmicità, insomma Max Gazzè gli do un 6. Beh, un 6 a Max Gazzè, io ti dirò che gli darei anche 7, 7 e mezzo. Sono curiosa di rivedere come salirà sul palco domani sera, perché vi ricordiamo che questa sera saliranno sul palco gli altri 13 artisti big in gara. Poi subito dopo Gazzè io ci tengo, e soprattutto appunto anche essendoci con me Adelina, subito dopo Gazzè io non me l'aspettavo, quindi è stata insomma una gran sorpresa. Sul palco di Sanremo viene fatto un appello anche per Patrick Zaki, quindi insomma ricordando anche la nostra puntata di lunedì di Fujiko Factory di qualche settimana fa, Patrick Zaki, appunto attivista per i diritti umani, viene data voce sul palco, soprattutto perché ahimè gli sono stati dati altri 45 giorni di detenzione. Quindi io però sono felice che in una cassa di risonanza quanto Sanremo appunto insomma sia stata detta questa cosa anche sul palco. Sì, no, certo, la visibilità è stata data, e ora speriamo che dopo tutta questa visibilità, però ora questa non basta neanche più, quindi è bello portare queste cose sul festival, sarebbe bello anche magari dare ancora un po' più spazio e per spiegare ad esempio la questione di Patrick e del perché da un anno è in questa situazione, quindi mi viene da dire che davvero ora dobbiamo superare il momento in cui dare la visibilità basta, perché questo momento è stato superato ormai da tempo, servono anche risposte, e quindi mi auguro, questa lo dico con un tono un po' di criticità e un po' di amarezza, perché purtroppo davvero non se ne può più, questi 45 giorni ulteriori alla pena di Zaki davvero mettono un'altra pietra sopra un macigno che adesso davvero pesa davvero troppo. E mi trovi pienamente d'accordo, infatti noi all'interno del nostro Fujiko Factory daremo sempre voce a Patrick finché Patrick non sarà finalmente libero, e insomma sono comunque felice che su quel palco si abbia dato voce a una cosa che bisognerebbe parlarne sempre, e quindi insomma è un inizio. Tra l'altro io sono in ritardissimo per chiamare Eddie, ma qui è un continuo di canzoni, appunto stiamo ascoltando in sottofondo Il Farmacista di Max Gazzè. Paolo ci scrive: lo avete mai visto live? Perché è un'esperienza davvero bella, nonostante fossimo in teatro all'Arena del Sole. Non capisco questo dissing col teatro Arena del Sole, però Ma insomma, Max Gazzè è uno di quegli altri che vorrei finalmente presto vedere live. Ma poi si continua, perché dopo Max Gazzè sale sul palco Noemi. Io voglio fare però una postilla: giornalisti italiani, basta sottolineare che Noemi è dimagrita. Questo lo abbiamo capito, lo state scrivendo ovunque, anche se in realtà il problema è che Noemi stessa, che sta a mio avviso mandando messaggi sbagliati. Sei bellissima, il brano è bellissimo, felicissima che sia al Festival di Sanremo, ma impariamo ad usare le parole e a dare un significato corretto a quello che stiamo dicendo, appunto perché Sanremo è un palco comunque che dà è una cassa di risonanza molto importante, quindi insomma niente, ci tenevo a dire questo. Comunque la canzone di Noemi è Glicine, fa più o meno così. Mi dici che non funziona più, siamo soli adesso noi, sopra un pianeta blu, e quando arriva sera invadi la mia sfera, non è la primavera che non sento da un po', non sento da un po', i brividi sulla mia pelle, il tuo nome tra le stelle, sembra ieri che la sera ci stringeva quando tu stringevi me. Per fingere, dentro ti amo e fuori tremo, come glicine di notte. Scommetto che ora non metti più l'abitudine di te, sempre come tu, e quando arriva sera mi manca l'atmosfera, non è la primavera. Sembra ieri che la sera stringeva quando tu stringevi me. Ricordo ancora quella sera, guardavamo le code delle navi dalla spiaggia sparire. Vedi che sono qui che tremo. E questa è appunto Noemi che canta Glicine, ma nel frattempo ci ha raggiunto telefonicamente Eddie Anselmi. Buongiorno. Direttamente da Sanremo. Benvenuto. Grazie. Eddie. Benvenuta, bentrovata, ben conosciuta Lucri, spero che tu stia bene. Ieri abbiamo fatto una diretta speciale con il direttore e poi chi c'era, anche Adelina se non sbaglio. Che anche oggi è in versione avatar collegata con noi da Zoom, da Meet, insomma facciamo questi collegamenti per riuscire a portare avanti il nostro Fujiko Factory. Io sono felicissima di chiamarti, sei insomma il nostro collegamento perfetto con Sanremo. Ma come va Sanremo? Allora, Sanremo è un Sanremo surreale ovviamente, da domani saremo in zona arancione, quindi oggi mi sono potuto prendere per l'ultima volta una birretta seduto su uno sgabello di legno, perché da domani solamente le panchine. Però d'altra parte, come voglio dire, gli inviati di guerra fanno peggio, e in questo momento anche solamente vedere Sanremo, vedere il cielo, vedere il mare, per noi che siamo bolognesi, professionalmente ovviamente siamo qui per lavoro, però è una sorta di privilegio, cioè nel senso che è un uscire dalla routine, ovviamente con la cautela, con l'attenzione che la situazione richiede, però nello stesso tempo, insomma, per noi che siamo gente di pianura, guardare il mare appena svegli la mattina serve anche un po' a ricaricare le pile per le prossime settimane, che saranno magari un po' lunghe. Assolutamente sì, ma quindi immagino che anche oggi ci sia un bel sole dalla Liguria. Oggi c'è un sole malato, ma ce lo teniamo, va bene, ci piace. Appunto, dicevi giustamente da bolognese, quindi insomma da bolognese, collegamento con Bologna, io subito dico, ieri c'è stata una grandissima bolognese, di Pianoro, ma noi la rivendichiamo come bolognese, Matilda De Angelis. Sì, esatto, ma Pianoro conta come Bologna, è città metropolitana ormai. Sì, Matilda è stata veramente una rivelazione, io la conoscevo come attrice, ma sai, quando si recita non si è se stessi, ieri ha saputo essere un po' più se stessa, ha usato anche espressioni gergali nostre, che non ti può darsi della lingua, che sì, è una cosa tipicamente cittadina. Io l'ho subito, quando parlava del bacio, diceva sì, poi dopo si danno della lingua. Adesso io mi sono addrizzate le orecchie, perché è una cosa che, come diciamo noi, esatto, nelle altre città non si dice. Però, però insomma, diciamo dai, che era traducibile in tutte le lingue, insomma, era traducibile il in baciarsi, tutti i dialetti, il baciarsi, il messaggio è arrivato. Ma soprattutto, vabbè, Matilde abbiamo detto approvatissima, ma tu personalmente di Zlatan Ibrahimovic cosa pensi? Ma io penso che sia un grande campione, anche se il gioco del Milan è un pochino più accentrato su se stesso. No, dai, sto scherzando, parliamo di Sanremo. Facciamo, ha fatto un po' la figura del maggiordomo Lerch, quello degli Adams, sai, però d'altra parte quello doveva fare. Quindi è stato chiamato a fare esattamente quello che doveva. Domani canterà con Sinisa Mihajlovic per rimanere a Bologna. Non è uno scherzo, gli faranno davvero cantare una canzone dei Nomadi. Ecco, io sono molto, ho un po' paura, sono tra il terrore e la Ma no, ho capito, l'attesa. Ma dei Nomadi, sono due persone di origine ex-jugoslava, gli fai cantare un pezzo dei Nomadi, cioè, ma dai, allora sarà che prendi questa mano zingara, no, è stata una scelta, è una scelta brutta, il cuore è uno zingaro e va, no, cioè potevi fargli cantare un pezzo di Bregovic, cioè, un klezmer balcanico, anche perché comunque in ogni caso, origini e luogo di nascita a parte, Zlatan Ibrahimovic è svedese e quindi io l'avrei accolto scioccando, anche per lasciare un messaggio per insomma la seconda generazione, ancora il passaporto, la maglia, io l'avrei accolto con gli Abba più che col pezzo di alla Bregovic, perché sarebbe, insomma, lui è svedese, lui gioca per la Svezia e la sua famiglia vive a Malmo e quindi perché non gli Abba? No, io no, ma sì, scusatemi. Guarda, ti trovo, sono pienamente d'accordo, infatti penso che sia uno dei, ahimè, tanti scivoloni che in realtà verranno fatti a Sanremo. Tra l'altro ieri appunto il pubblico mancava, si è parlato tanto rivolgendosi a, insomma, ai pigiamini da casa, ma soprattutto alle poltroncine. Devo dire, un Fiorello sul pezzo, cioè Ama e Fiorello, insomma, sinergici insieme, e poi fanno insomma il riferimento ai 300 figuranti pagati che ora svagano per l'Italia perché poi alla fine non hanno potuto partecipare. Sono abituati a fare radio, anche in radio non vediamo il pubblico, chi è venuto dalla radio il pubblico non lo vede, lo deve pensare, deve immaginare il suo sorriso, gli basta un assistente di studio, un ospite accanto al mixer per immaginare tutte le reazioni del pubblico, e direi che l'esperienza radiofonica, una volta prese le misure fisiche di quel palco vuoto, ha riuscito a fare la differenza. Ecco, io magari avrei riempito la platea di qualcosa di diverso dalle poltroncine rosse, ci avrei messo delle piante, per esempio, dei fiori, i famosi fiori di Sanremo. Ogni anno si dice non mettono i fiori sul palco, beh, adesso c'è una platea piena e potevate metterci due fiori, no. È vero, sono d'accordo, però sai che da un lato in realtà penso, non so, a Ultimo Concerto, tutto quello che sta avvenendo, anche inquadrare continuamente, anche perché le inquadrature sono spesso a questa platea vuota, forse possa avere anche un forte segnale, insomma, anche verso le autorità di provare a fare qualcosa, perché quelle poltrone rosse forse potevano non essere vuote facendo le cose in un certo modo. Secondo me invece è stato più un ultimo momento, cioè non facciamo niente perché andrà tutto bene, poi all'ultimo momento ti trovi che tutto non va bene e ti trovi a immaginare un piano B senza i tempi. Però vabbè, siamo poi in Italia, l'ultimo esatto, momento è il momento più importante, perché sennò non ci sarebbe il tempo per fare le cose. Io ricordo ai tempi in cui stavo a Radio Fujiko, che è una delle due genitrici di questa emittente, sì, c'era un cartello che diceva proprio l'ultimo momento è quello fondamentale, perché sennò non si saprebbe quando fare le cose, era affisso in un muro della radio, quindi, perché era un po', c'è da fare questo, ah sì, facciamo, quindi credo che anche insomma quello che succede nelle piccole, adesso magari sicuramente adesso voi siete molto più organizzati, sono passati gli anni, però un tempo anche in queste piccole realtà c'era questo ricorrere, aspettare l'ultimo istante a decidere. E la RAI è uguale, cioè la RAI alla fine è un'azienda italiana, dell'italianità ha la capacità di fare le cose all'ultimo momento e il vizio di farle all'ultimo momento. Tra l'altro, a proposito di cose che succedono all'ultimo momento, questo però in realtà non è totalmente colpa della RAI, Irama. Irama non è completamente colpa della RAI, però diciamo che anche per vedere che un cantante poteva essere positivo e creare una situazione antipatica, poteva essere comunque prevista prima, direi che hanno trovato comunque all'ultimo istante una soluzione ottima. Irana quindi a norma di regolamento sarebbe qualificato, ma Amadeus ha chiesto agli altri cantanti di poter fare gareggiare i Rama con il filmato delle prove. Allora io dico, potevate già filmarlo con gli orchestrali vestiti, fare una prova sapendo che tutti erano in gara, così sarebbe stato un piano B, un backup che sarebbe previsto in partenza e valido per tutti. Non è stato fatto, però insomma, meglio tardi che mai, meglio un gol al 93 che nessun gol. Sì, tra l'altro esatto, è un Sanremo pienissimo di citazioni calcistiche, io devo dire che non ci capisco niente, quindi insomma presenza un po' ambigua di Zlatan, però appunto abbiamo un Sanremo con molti parallelismi al calcio. Giustamente lui voleva c'era una canzone che si intitolava Gol. C'è anche Willy Peyote che parla, esatto, di pallone, ma in termini politici le stati sono aperte, mi devo mettere a dare a calci un pallone, ma in realtà Willy Peyote probabilmente aveva scritto questa canzone tra settembre e ottobre, perché adesso sono chiusi anche gli stati, però è stato lungimirante. Esatto, sono stati lungimiranti, però giustamente Zlatan diceva si gioca in 22, quindi eliminiamo qualche calciatore, qualche artista in gara, altri li vendiamo, quindi insomma tante gag anche sul mondo calcistico, però insomma vediamo se in queste prossime serate avrà da dimostrarci altro. Tra l'altro questa sera, come insomma donna sul palco, ci sarà Elodie, che ha dichiarato in conferenza stampa che si vorrà divertire, vorrà essere insomma un po' bambina. Sì, ma Elodie è una bella storia di successo. Elodie è cresciuta in un quartiere di periferia di Roma, insomma una situazione familiare ai bordi, proprio davvero, altro che Ramazzotti, lei nata ai bordi di periferia e Elodie padroneggiare con carattere e con anche consapevolezza di sé tutto quello che c'è a Sanremo nel mondo della canzone, ci fa piacere, è proprio un'occasione di riscatto femminile e sociale, diciamo, perché in quel momento, se tu non pensi che sia venuto fuori da Tor Vaianica, Tor Bella, non so che cosa, ma dopo, non, magari 2 anni fa era diversa, 2 anni fa doveva prendere ancora un paio di misure. Devo dire che l'ho vista in 2 anni a Sanremo e umanamente proprio è cambiata, perché proprio il carattere va. La voglia, ricordo Milva, era così negli anni 60, non perché io ci fossi già negli anni 60, però all'inizio diceva Tolstoi, per dire il famoso romanziere russo Tolstoi, pensando che fosse francese, e alla fine poi è diventata una signora che tutti rispettavano, tra le grandi signore della canzone. Assolutamente. E io ti direi, per chiudere il nostro collegamento, non possiamo non chiudere parlando di Achille Lauro. 5 quadri, uno per ogni serata. Ieri c'è stato il primo, che devo dire ha lasciato un po' senza parole, soprattutto insomma il sangue che gocciolava sul viso, e stasera e nelle prossime sere vedremo gli altri. Sì, è una cosa molto interessante. A noi sembrava un po' uno dei protagonisti della serie Atlas, Ufo Robot, forse per i più giovani si chiama Ufo Robot Grandizer, il primo cartone animato trasmesso in giapponese, sembrava appunto uno dei generali di Vega, che erano i nemici di Goldrake, forse insomma i giovani googlino, quelli che hanno qualche anno di più se lo ricordano, perché insomma è stato davvero esteticamente intenso. Beh, quindi direi di sì, intenso. Gli altri 4 quadri. Ma anche perché nei prossimi quadri, ho capito male, o ci saranno ospiti insieme a lui? Ci saranno ospiti, stasera ci sarà, mi sembra, Claudio Santamaria con Francesca Barra, vedi, un'altra persona, e ci sarà Emma Marrone, che tornerà a essere diretta da Nick Chen nei prossimi giorni. Ci sarà Emma Marrone, tornerà a essere diretta da Nick Cerioni. Nick Cerioni è il creatore di questi mondi estetici, sì, per Achille Lauro, ma è stato anche, se lo ricordano forse, il creatore della performance dell'Eurovision di Emma Marrone, quella che tanto puoi discutere. E quindi Emma Marrone tornerà a essere diretta e creata da Nick Cerioni dopo 7 anni, insomma un'esperienza che non andò benissimo. D'altra parte eravamo tutti più giovani, quindi Nick è diventato veramente un grande, vestirà anche. Beh, Nick, tra l'altro, esatto, ma anche insomma Nick Cerioni, perlomeno io l'ho conosciuto anni fa con Jovanotti, quindi ha sempre seguito anche Jovanotti, quindi da anni segue proprio i grandi. Nick Cerioni, i Maneskin, è diventato veramente uno dei più importanti creatori di mondi estetici. Lui non si definisce uno stylist, lui dice: io creo mondi, non vesto la gente. Sicuramente. Eh beh, assolutamente, vedendo appunto come, diciamo, veste Achille Lauro, è un titolo che si è preso assolutamente per merito. Tra l'altro attesissimo anche il look di Orietta Berti a questo punto, che dopo essere quasi stata arrestata e inseguita da tre volanti, vedremo cosa farà questa sera sul palco. Sappiamo che avrà un pellicciotto rosso con scritto Orietta. Esatto. Non voglio rovinarvi la sorpresa. Esatto, per ora anche noi sappiamo questo e non vediamo l'ora questa sera intorno alle 20:30 di farci quest'altra maratona per la seconda serata del festival, e noi Eddie ci risentiamo domani per fare il punto, esatto, della situazione. Ci saranno anche i nostri ex reduci della radio, siamo diversi ex reduci di Radio Città Fucico a Sanremo, ci sono io e ci sono il Stato Sociale. Esatto, nello stesso hotel, ho sentito ieri, non vediamo l'ora di sentirli live, e anche perché insomma ormai è stato spoilerato che a cantare sarà Albi. Sì, a cantare sarà Albi. Era di Albi, ecco, Una vita in vacanza, ma cedette il microfono, esatto, a Lodo e a Checco, e quindi invece questo sarà il Sanremo di Albi. Da Sanremo è tutto, alle amiche, agli amici di Radio Città Fucico un buon pomeriggio e magari ci sentiamo nei prossimi giorni. Ciao. Assolutamente sì, un saluto a Eddie che ringraziamo. Intanto Adelina è sempre qui con noi. Ci senti, Adelina? Forte e chiaro. Beh, abbiamo appena fatto un collegamento da Sanremo, quest'altro è un collegamento dalla Bolognina. Sì, tra l'altro che brutto, perché io che vengo dalla Liguria, e sentire parlare di sole, di mare, così mi fa venire un po' di nostalgia, visto che da domani saremo in zona rossa. Però niente, insomma, dalla Liguria mi disturberò il festival, ecco. Esatto, poi tu tra l'altro sei una ligure che non guarda il festival, ma probabilmente siete molti più liguri, perché insomma capisco anche che secondo me averlo a casa propria probabilmente non è il massimo. Ma noi eravamo arrivati a Noemi con appunto Glicine, poi vi abbiamo raccontato appunto della questione dei 300 figuranti pagati, poi c'è stato tutta una gag di Fiore e Ama sulla DAD, quindi la didattica a distanza, e ci hanno raccontato come si chiamano le dita dei piedi. Tu lo sai, Pippi? No. Ma direi che possiamo anche andare oltre, perché non era in realtà così interessante, però ci hanno fatto una gag di moltissimi minuti fino ad arrivare ad Achille Lauro con appunto il primo quadro, Lettera del mondo all'umanità, sicuramente un quadro un po' controverso, ovviamente non è l'arte, non può sempre piacere a tutti, però io sono curiosissima di vederlo appunto questa sera, fino poi ad arrivare al settimo cantante in gara, che era appunto Madame, che si presenta sul palco vestita praticamente con uno smoking, dove appunto c'erano tutte queste parti di specchio, a piedi nudi, e devo dire che è giovanissima, ricordiamo che ha 18 anni e ha calcato il palco di Sanremo per la prima volta, una canzone molto molto bella. Mi ricordo di te, ricordo i mille giri sulle giostre, su di te. Ho fatto un'altra canzone, mi ricorda chi sono. Ho messo un altro rossetto sopra il labbro superiore. Negli occhi delle serrande mi stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato e sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva 100 anni da me, voglio rimanga negli anni con me. Fuoco e sbarazzarmi di lei, ma torna da me. Dove sei finita amore, come non ci sei più? E ti dico che mi manchi, se vuoi ti dico cosa mi manca. Adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me, adesso che non ci sei più. Ricordi di me, quanto bello abbracciarmi, per sentirti un po' a casa, sarà bello abbracciarmi, dirti mi sei mancato, in un bosco di me, c'è un rumore incessante, lo faccio da parte, tu sei la mia voce, mi ricordo di te. Mi vedevano ridere sola, ma di te, ho baciato un foglio bianco, la forma delle mie labbra. Ha scritto da dove nasci tu e che non morirai. E se negli occhi delle serrande si stenderanno, io sparirò. L'ultimo soffio di fiato darà la voce a quella che è l'unica cosa più viva di me. Voglio che viva 100 anni da me, perché in giro mi chiedo di me e mi chiedo di te anch'io. Dove sei finita amore, come non ci sei più? E ti dico che mi va. ti ricordi di me. Quanto bello abbracciarmi per sentirti un po' a casa. Sarà bello abbracciarti, dirti mi sei mancato. In un bosco di me c'è un rumore incessante, lo faccio da parte, tu sei la mia voce. Devi non farlo. Vedo cercato in ogni dove, nelle corde di gente che non conosco, ma in fondo bastava guardarmi dietro più che attorno, senza pensare in me, non me ne rendo conto. Dove sei finito amore, come non ci sei più, e ti dico che mi manca, se vuoi ti dico cosa mi manca, adesso che non ci sono più, adesso che ridono di me, adesso che non ci sei più. Nel bosco di me, ora siamo tornate per sempre, sa che tu sei la mia voce. Ecco perché non andava, perché mi ero accesa al microfono sbagliato. Comunque questa è Madame con Voce. Devo dire che la sua voce l'ha fatta sentire sul palco del Festival 2021 e appunto una giovanissima Madame. Tu cosa pensi di Madame? No, mi è piaciuta la sua esibizione. Dai, ce l'abbiamo fatta. All'alba delle 16:10 abbiamo trovato una canzone che piace ad Adelina. No, la canzone non mi piace, mi è piaciuta la sua esibizione. Però non, ho deciso di usare questa policy nei confronti di questo programma e nei confronti di questo programma per Sanremo, cioè l'autocensura, e dirò solo cose carine. No, la assolutamente. No, ma lo faccio anche per me, perché sennò poi non posso più entrare in radio. Ma guarda, in realtà in questa radio, all'interno di Radio Città Fucico, probabilmente sono una delle uniche che difende a spada tratta Sanremo, quindi in realtà troveresti tutti d'accordo. Sono più io una goccia nel mare, in realtà, nel difendere Sanremo, nel difendere però la musica dal vivo, che in questo anno c'è mancata tanto. Siamo appunto arrivati al settimo big in gara, appunto Madame. Subito dopo in realtà rientra Matilda De Angelis, che fa insomma questo monologo insieme ad Amadeus sul bacio. Io devo dire che insomma va bene, abbiamo sdoganato la parola limonare in diretta su Rai 1, abbiamo insomma darci la lingua, come giustamente ci ricordava Eddie, ha portato un po' anche lo slang bolognese, però insomma so che ovviamente non l'ha scritto Matilda, non è stata ovviamente una sua scelta, forse avrei fatto qualcosina in più, anche perché appunto insomma avevano Matilda, che secondo me è appunto straordinaria. Tra l'altro poi appunto c'è stato anche un po' il gioco su Orietta Berti, Orietta Libera, sul palco a fiore urla. No vabbè, scusate, cioè poi ditemi che non è trash Sanremo. Mi seguite da tre volanti, ma dai, vi prego. È ovviamente super trash, come appunto era trash questo momento sul coprifuoco, che ovviamente c'è anche all'interno di Sanremo. Ma zitti e buoni, subito dopo sono saliti sul palco i Maneskin. Lo possiamo dire, fighissimi tutti e quattro. Sì, io volevo anche fare un commento positivo nei confronti della loro canzone, perché finalmente è una canzone, sono partiti a bomba e ora non vorrei insultare i Franz Ferdinand, spero che non se la prendano, però fino a che poi non hanno iniziato a cantare mi sembravano i Franz Ferdinand, che invece i Franz Ferdinand spaccano. E no, mi è piaciuta la canzone in realtà. Cioè loro mi piacciucchiano abbastanza. Anche perché devo dire grandissima presenza scenica di tutti e quattro, molto molto particolari, cantano Siamo fuori di testa ma diversi da loro. Quindi insomma anche il brano secondo me merita tantissimo, come tutti i brani va sicuramente riascoltato, ma loro con Zitti o Buoni secondo me si sono fatti conoscere, ma soprattutto riconoscere per quello che stanno insomma diventando. Sì, poi si sentiva che erano i Maneskin, sì. Erano autentici, era una delle loro canzoni, cioè era proprio una loro canzone, non troppo adattata a festival, nel senso che appunto non era la lagna che parlava di struggimenti d'amore o di chissà cosa, però erano i Maneskin, a me sono piaciuti, bravi. Esatto, che non l'ho ancora data. Addirittura sette. Adelina arriva finalmente a dare voto 7, ma tra l'altro appunto io li ho apprezzati molto, hanno portato la loro cifra stilistica e insomma secondo me approvatissimi. Tra l'altro poi passiamo all'ottavo, anzi il nono cantante in gara, arriva sul palco Gemon. Nel mezzo c'è stato un intramezzo con Zlatan Ibrahimovic, ma che vabbè vi lascio, insomma ve lo lascio immaginare, ma appunto ha presentato Gemon. La canzone è Momento Perfetto, direttore d'orchestra Rodrigo D'Erasmo. Sicuramente guardandolo ti viene in mente Quanti Ricci, perché insomma chi si ricorda Gemon anche alle scorse passate edizioni non aveva così tanti capelli, quindi insomma vedi Esatto, vedi questi capelli e questo brano che devo dire non mi ha totalmente convinto. Sì, io anche su questo brano ho una nota positiva. Vai. L'accompagnamento musicale mi è piaciuto tantissimo, perché mi ha ricordato un po' questa, su una falsa riga di una brass band americana, c'era una bella sezione di fiati e anche questa comunque era una canzone. Se io sono curiosa di risentirlo live in una sua seconda reinterpretazione, perché secondo me lui era molto emozionato. Sì. Io credo che le prime quattro note le abbia suonate in pieno, e se vogliamo essere un po' più tecniche, si sentiva che aveva un po' il groppetto in gola. Secondo me se apre il diaframma e inizia a cantare a pieni polmoni può regalarci una bella canzone. E questo era il consiglio tecnico, com'è che dico sempre, conservatrice, conservatore, insomma direttamente dagli studi in conservatorio di Adelina. Però sì, sicuramente un po' per tutti ha giocato tantissimo l'emozione, che è un po' quella che alla fine, una volta che sei su un palco e finalmente si canta e non si canta in playback, bisogna tenere in considerazione questo. Ovviamente anche tutte le esibizioni che vi stiamo facendo ascoltare sono proprio prese dai live di ieri, mi confermi Adelina? Confermo, quindi insomma si sente proprio anche l'imperfezione e l'emozione nella voce. Tra l'altro subito dopo questi fantastici ricci di Gemon con il brano Momento Perfetto, era poi il momento perfetto per fare un assoluto omaggio al DJ Claudio Coccoluto, che ci ha lasciato insomma la scorsa notte, un omaggio a un DJ comunque di fama mondiale, ma soprattutto appunto anche Ama e Fiore, appunto da buon DJ anche loro, insomma era doveroso fare questo ringraziamento e questo insomma abbraccio e applauso da parte di tutto il festival. Dopodiché cantano Fiorello e Matilda, quindi Matilda De Angelis si mostra anche per la bravura, lei ha un gruppo, quindi canta, suona, è brava, quindi canta e suona sul palco su Ti Lascerò, e insomma è stato un duetto veramente molto bello e insomma ha messo in risalto tutte le sue bravure. A un certo punto poi Fiorello fa questa gag che in realtà ha fatto spesso di dire chiamatemi, quindi ha chiesto a personaggi famosi di chiamarlo, gli è esploso il telefono, ma chi siamo riusciti a sentire è stato Claudio Santamaria, che appunto ci sarà questa sera con Achille Lauro sul palco, Gianni Morandi, quindi un altro bolognese che ha calcato in qualche modo il palco di Sanremo, Mara Venier, la Zia e Jovanotti, quindi insomma tutti hanno insomma più chiamate, ma noi siamo appunto riusciti a sentire questi tutti davanti al televisore in pigiama. Jovanotti ha anche elencato i nomi di tutti gli animali che erano lì con lui, quindi gatti, topi, elefanti, di cui non si ricordava neanche il nome, insomma la stravaganza di Jovanotti anche per telefono. Subito dopo Gemon arrivano finalmente gli attesissimi Coma Cose con Fiamme negli occhi, sono arrivati, hanno sceso le scale mano nella mano in rosso vestiti serpentati, io ho scritto nei miei appunti, California e Fausto, coppia anche nella vita come hanno più volte sottolineato. Io dirò che questa canzone va ascoltata attentamente perché in realtà è bellissima, almeno dal mio punto di vista, ma devo dire che a primo ascolto, data anche l'emozione soprattutto di Francesca, California è sicuramente una canzone molto bella e devo dire anche molto quotata. E te lo dico ugualmente. Che dire, io non ho colto tutta questa bellezza, però ascolterò il tuo consiglio e me la riascolterò più e più volte, Lucri, perché sicuramente non senti, ho senti questa colto. Parte che non ti ha conosciuto. Erano molto riconoscibili, devo dire. Sì. Erano molto riconoscibili, anche loro erano molto Coma Cose, soprattutto nel testo. E poi che dire ancora, mi ha fatto molto ridere perché appunto hanno sceso questa scalinata mano nella mano e poi si sono messi a cantare distanziati. Però aspetta, devo dire questa cosa, hanno cantato distanziati, ma in realtà questo devo ringraziare Marti, la mia coinquilina, che era sul pezzo, perché subito ci siamo dette: ma come cazzo si sta muovendo California? Perché si muoveva in un modo stranissimo. Poi abbiamo ricapito un po' il senso del brano e in realtà lei all'inizio del brano lei ha suonato tantissimo, bisogna dirlo, però secondo me appunto in versione Spotify e da studio tutte queste stonature non ci saranno. Comunque parlano di baricentro, quindi in tutta la prima parte di esibizione California, nome d'arte, si muove in un modo molto robotico, finché sì, poi nel testo lui in un qualche modo gli dà come il via libera e quindi iniziano a muoversi in modo molto sinergico. Quindi in realtà c'è stata dietro una performance che devo dire non si capiva subito, ci voleva dietro una grande attenzione. Comunque queste fiamme negli occhi a me le hanno fatte sentire, soprattutto la frase "ti mangio la malinconia", a me è piaciuta molto, anche perché appunto loro nei loro brani fanno molti giochi di parole che insomma a me piacciono molto. Arrivando poi alla prima, perché ieri ha votato la giuria demoscopica, e Annalisa con il brano 10, col brano 10 non è arrivata decima ma prima. Ammetto che Annalisa non è assolutamente tra le mie preferite, ha confezionato insomma un brano proprio in perfetto stile sanremese. Ho letto una dichiarazione di Eddie Anselmi, ma la penso così anche io credo che lei abbia una voce fenomenale, abbia una... non so, secondo me è proprio brava, ma canta canzoni date dal fatto che non le scrive lei, e quindi questo in realtà penso sia uno dei principali motivi. Secondo me vale tantissimo, è sottovalutata al massimo e le, insomma, servirebbero canzoni totalmente diverse, però tutto sommato è una canzone sanremese bella. Io qua mi autocensuro proprio completamente, non rilascerò alcun commento. Bene, sul no comment noi ci ascoltiamo un pezzettino di Annalisa con 10. Ma l'ultima volta è sacra, l'ultimo bacio in strada, tu scrivimi tra un'ora, serviranno ancora 10 ultime volte. 10 ultime volte. Vestiti fuori posto, addormentati in un parcheggio, baci francesi delivery, le scenate nell'appartamento, merito caffè latte corretto, e mi piace se esageri, non ho tempo, deciditi, io però non ti aspetto, mi ricordi di un libro che ho letto, e non deve andare così, non fanno l'amore nei film, e forse non ritorno in me, ma niente panico. E questa è appunto Annalisa con 10. Undicesima cantante in gara tra i big per Sanremo 2021 in questo mercoledì di Fujiko Factory, che noi in realtà stiamo andando quasi in chiusura. Lucri e Adelina, grazie per averci scritto al 3380 94 94. Adelina in versione avatar è sempre meravigliosa. Ma arriviamo al dodicesimo cantante in gara, un altro ricciolo, insomma sul palco di Sanremo arrivano molti cantanti ricci, arriva sul palco Francesco Renga. Anche Francesco Renga insomma ormai un abitué del festival, che ci canta "Quando trovo te". Io non mi sono segnata appunti su Francesco Renga perché si era fatta una certa, era più o meno l'una, e quindi iniziavo un po', mentre mi avevano spento tutta casa, quindi prendevo i miei appuntini al buio. Quindi su Francesco Renga in realtà non avevo molto da dire, se non che vabbè, oggettivamente ha una voce molto bella, è un abitué del festival, quindi sa costruire un brano per il festival. Non avrei però altro da dire. Adelina, dubito anche tu. No, guarda, no, nemmeno io su Renga mi ricensuro, forse non è il mio genere, non è proprio il mio stile, non lo comprendo, però capisco che questo è Sanremo, Sanremo è Sanremo, e questo è, devo dire. Sentiamo un pezzo del ritornello. Mi dimentico, dimentico di te, sempre mi dimentico, ma poi io ti ritrovo sempre. Se mi guardo intorno non c'è niente, sei lo stupore atteso, un desiderio. E questo appunto era Francesco Renga. E l'ultimissimo cantante in gara è stato Fasma, anche lui giovanissimo, anche lui che porta l'autotune sul palco. Io mi sono scritta: emozionato, bella al primo ascolto, sicuramente da riascoltare, ma devo dire che a me ha colpito. Adelina, secondo me a te non piace, a me personalmente però è piaciuto molto. Un altro giovanissimo, e chiude così appunto il festival. Come puoi farlo te? Non dire, non dire che ti va bene questo mondo bastardo. Anche col posto rubi il posto di un altro. Anche se voglio io non posso cambiarlo. Io non posso cambiarlo, io non sono quell'altro. Che ti di me, che ti di me. Ti rimane solo addosso il tabacco, qualche foto e qualche vestito sporco. Anche se voglio io non posso cambiarlo, io non posso cambiarlo. Ma noi sì. Parlami, parlami, dai, ti prego tu guardami, perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagino, e quindi guardami. Sai che adoro quegli attimi in cui non litighiamo e siamo proprio come ci immagini. Quindi parlami, parlami, dai, ti prego tu parlami, perché dentro i tuoi occhi già vedo come mi immagini, e quindi guardami. Sai che adoro. Vabbè Adelina, so che a te non piace, a me però questa canzone piace molto, e quindi chiudiamo con Parlami, con appunto Fasma. Tra l'altro poi nel mentre risuona Diodato, ricanta Diodato due brani, arriva sul palco la banda della polizia, quindi insomma una parte in cui in quel momento appunto Amadeus si va a bere un caffè al bar con ovviamente un simpatico Fiorello in versione barista, sottolineando che al festival non era mai successo, perché ovviamente al festival non era mai successo che non potessero stare sullo stesso palco contemporaneamente così tante persone. Quindi insomma si chiude con un momento molto molto emozionante, ma soprattutto si chiude con la classifica. Il festival lo chiudono intorno all'1:27, dopo appunto il caffè al bar, dove si riuniscono Fiorello, Amadeus e Matilda De Angelis per dire la classifica finale. Noi la diremo al contrario: al primo posto Annalisa, poi Noemi, Fasma, Michelin e Fedez, Francesco Renga, Arisa, Maneskin, Max Gazzecco, La Pesce di Martino, Coma Cose, Madame, Gemon e ultimo posto Aiello. Nell'attesa appunto di scoprire le altre 13 canzoni in gara, io sono molto curiosa, perché questa sera l'ordine delle canzoni in gara sarà: la primissima, la nostra Orietta Berti, che io non vedo l'ora di scoprirla sul palco con Quando ti sei innamorato. Avremo poi Adelina, la nostra rappresentante di lista, dovete vedere l'espressione felice, con Amare. Poi avremo lo Stato Sociale, Combat Pop, Bugo, Gaia, Willy Peyote, Malika Yan, Fulminacci, Extra Liscio featuring Davide Toffolo, Ermal Meta, Joe Evan, Irama, che appunto scopriremo questa sera esattamente cosa succederà, e Random. Quindi da stasera avremo ufficialmente, saremo a conoscenza ufficialmente di tutte e 26 le canzoni in gara. Questa sera condurranno come sempre Amadeus e Fiorello, arriverà appunto Elodie, ospiti Achille Lauro con Claudio Santamaria e Francesca Barra, Laura Pausini dopo insomma essere vincitrice del Golden Globe, Il Volo, Gigliola Cinquetti, Marcella Bella, Fausto Leali, il mio Fausto Leali, sono molto felice, Gigi D'Alessio, Alex non lo so dire, Adelina, vabbè, Alex, non ho fogli, non ho niente, tu non condividi nulla con me. Schwarzer e Cristina Girelli, diciamo che lo chiameremo così, ma soprattutto le nuove proposte che apriranno alle 20:30 la seconda serata di questo Festival 2021. Però sono stronzi, perché io il primo nome non lo so leggere. Wrong and You, fingiamo che sia così. Greta Zuccoli, Wrong on You, quello lì, bravissima, Davide Shorty e Dell'Ai. Ecco, allora io devo dire che punto molto su questa scaletta, in realtà, perché già vedo un paio di nomi, vabbè, oltre alla rappresentante di lista che io adoro, però sono molto curiosa di ascoltare Willy Peyote e i giovani, in realtà anche Davide Shortino, sono molto curiosa. Sì, anch'io. Fu uno dei miei ultimi concerti, probabilmente quello di Davide Shorty in Montagnola e con la Feng Shui Project, che sì, è banda band spalla ormai, ma non solo spalla, anche un po' protagonista, e potrebbe darsi che stasera io mi metto a guardare il festival, ma solo perché la rappresentante di lista canta per secondi, quindi ma dopo infatti guarda, ti dico un po', secondo me la rappresentante di lista, calcolando che iniziano, si farà insomma un po' di show, le nuove proposte, secondo me sono quotate verso le 9:20, 9:30, quindi ti faccio uno squillo, ti chiamo, grazie, e ti dico guarda, secondo me stanno per calcare il palco. Tra l'altro io ho tolto la base, segnale che dobbiamo assolutamente andare in pubblicità, ma io vi ricordo che domani torneremo sempre dalle 15 alle 17 col nostro Fujiko Factory del giovedì per ricommentare insieme la seconda serata del festival, sempre con la mia Adelina in remoto. Prenderò appunti anch'io. Però non sarò così clemente come quest'oggi, ve lo dico, perché se prendo appunti vuol dire che prende appunti è un casino. E poi soprattutto avremo ancora il nostro fantastico collegamento telefonico da Sanremo col nostro Eddie Anselmi, ma rimanete sintonizzate perché come sempre il nostro Fujiko Factory non finisce qui, ma abbiamo l'intervista del mercoledì del Festival Backpack, i miei fantastici Mauro ed Erika, e dovete in realtà sapere che Salsiccia, il loro fantastico cane, sta diventando in realtà la protagonista indiscussa di questa rassegna di Sanremo 2021, perché mettono dei meme veramente molto molto belli. Quindi noi ci risentiamo domani sempre dalle 15 alle 17. Grazie Adelina. Ma grazie a te Lucri. Grazie a te che hai detto grazie. Benissimo. E noi vi salutiamo e diamo l'appuntamento col Festival Backpack. Ciao.